This is my personal bridge for a secure future. Don't hurt me. Sfamare una famiglia in un futuro affitto da pagare, rata della macchina da saldare. Voglio camminare ancora dritto come tutti, sogno di soldi per rialzare ogni mia caduta del cuore. Quando non possiamo regalarvi delle vite da signore. Ah, dell'America del denaro fra zero interesse. E in vero ora col mio lavoro sono l'unica che cosa in alomaro. Ah, dell'America del denaro zero interesse. E in vero ora col mio lavoro sono l'unica cosa che in alomaro. Porca puttana. Morsi di stelle sul collo, vampiresco, sorso della mia vita tolto. E se crollo spero la speranza, mi rialzi, non mollo. Non può avere tutto da me, il tutto di ogni mio verso. Del mondo tolto, di ogni mia idea e di ogni sogno infranto. Con questo verso mi riprendo tutto. Give your life back. For every verse I run, for every verse I dance, for every dream I dream. Life back, life back to this verse. Maschere antigas per un respiro pulito. Troppo piombo nell'aria come uno sparo improvviso. Rombo e tuono del confondere del mondo. Cubo del cash per il tondo dell'arte, mentre il rimbombo di un suono di monete a terra come speranze infrante. Fa frastuono tra il mio presente congiunto alla linea del tempo, ponte del futuro. Non voglio più stare a digiuno, non stare sotto il mio ponte, non stare sotto il mio ponte, non tagliare il mio ponte. Abbiamo bisogno di maschere antigas, abbiamo bisogno di maschere antigas, antigas. Abbiamo bisogno di maschere antigas per un respiro pulito. Troppo piombo nell'aria, rombo e tuono di uno sparo profondo nel cuore del confondere del mondo. Sfamare una famiglia in un futuro affitto da pagare, rata della macchina da saldare. Voglio camminare ancora dritto come tutti, sogno di soldi per rialzare ogni mia caduta del cuore. Quando non possiamo regalarvi delle vite da signore. Ah, dell'America del denaro fra zero interesse. E in vero ora col mio lavoro sono l'unica che cosa in alomaro. Give life back. For every verse I run, for every verse I dance, for every dream I dream. Life back to this verse.